è una visualizzazione che usa Daniel Odier e noi saremo la Dea Kali. La Dea Kali ha due parti, è l'infinito amore e l'infinita violenza. Nella mitologia indiana, si fa riferimento, quella Kashmir in particolare, si fa riferimento alla lotta degli dei contro i demoni all'inizio. E lei, vista questa lotta che andava avanti, entra in campo, comincia a uccidere i demoni, ma nella foga cominciava a uccidere i dei, quindi hanno dovuto in qualche modo farle prendere atto di questa situazione. E la visualizzazione si svolge in questo modo. Noi siamo la Dea Kali e quindi in mano avremo una mannaia, un'ascia, quello che vogliamo. E cominciamo, siamo nella foresta, cominciamo a pensare a tutte le persone che ci hanno fatto soffrire e arriveranno pian piano davanti a noi e noi cominciamo come vogliamo, possiamo tagliarle a metà, possiamo tagliarle a pezzi, possiamo fare quello che vogliamo. E quando siamo veramente soddisfatti di questo, camminando sui pezzi di carne, usciamo dalla foresta, c'è un lago e ci buttiamo dentro. E tutto questo sangue può finalmente sciogliersi. E quando usciamo dall'acqua, dal nostro ombelico partono dei cordoni ombelicali e le varie parti delle persone si ricompongono. E ogni persona che abbiamo tagliato si riunisce a noi in riva al lago. E da queste persone altri cordoni ombelicali. E sono le persone che hanno fatto soffrire loro. E questo è una catena infinita. E noi osserviamo tutto questo.